It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sembra regnare una calma sospetta, K e Drago parlano al telefono. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Pronto? Pronto, sono io, Drago. Ma dove sei? Sono su una provinciale, al bivio tra Calolzio Corte e Bergamo. Ma cosa ci fai lì, Drago? Qualcosa non ha funzionato. Hai provato a usare l'astrazione? Sì. Non ha funzionato. Evidentemente no, mica desideravo trovarmi su una provinciale del Bergamasco, Dove avevi previsto di farti trasportare, invece, scusa? Ho pensato vagamente a un posto in campagna, qualsiasi posto andava bene. Forse il mio errore è stato quello. Non ho pensato esattamente voglio andare in Scozia, a Inverness. No, ho pensato alla campagna e mi sono trovato su questa provinciale a mezzanotte. Ma intorno com'è, scusa? E intorno è tutta campagna. Vedi? È campagna. Sì, vabbè, ma la provinciale è grande ed è piena di rifiuti e io sono a piedi. Dai, vieni a riprendermi, K. Sì, come faccio, Drago? Ti astraiti. Ma no, ma adesso non posso, Drago, devo andare a farmi fare un massage rilassante. Ma ci vai dopo? No, ci sentiamo dopo. Dai, scavalca il guardrail, poi taglia per un campo, vedrai che da qualche parte arrivi. Drago? Pronto, Drago? Smettila, smettila, metti giù. Smettila, smettila, metti giù. Metti giù, no, metti giù tu. Se non la smetti, metto giù. Se non la smetto, metti giù tu. Se non la metti, smetto giù. Se non la metto, smetti giù tu. Smettila, smettila, metti giù. Smettila, smettila, metti giù. Metti giù, no, metti giù tu. Se non la smetti, metto giù. E ti dismetto, metti giù tu. Se non la smetto, metti giù. Sono qui che aspetto, metti giù tu. Smettila, smettila, metti giù. Smettila, smettila, metti giù. Metti giù, no, metti giù tu. Se la smettiamo, chi mette giù? Metto giù io o metti giù tu? Come la mettiamo? Chi smette più? Smetto più io? Non smetti più tu. Smettila, smettila, metti giù. Smettila, smettila, metti giù. Metti giù, no, metti giù tu. Pronto? Sono io. Sì, lo so, ancora sulla provinciale. No, adesso sono nel parcheggio di un centro commerciale, c'è un vai e vieni pazzesco. Dai, vieni a prendermi. Ma non sei capace di tornare da solo? Cos'è sta storia che ti devo venire a prendere? Ma no, ma dai, ma vieni tu, dai, io da solo non ci riesco. Ti aspetto davanti al lavaggio automatico delle macchine, sai, quegli spazzoloni bianchi e rossi, presente? Dai, ti aspetto lì davanti. Ma dai, Drago, non è difficile. Ti astraiti e pensa intensamente alla fabbrica di polli. Vedrai che torni qua. A me funziona quasi sempre. Quasi sempre vuol dire che a volte non funziona. Lo so. A me una volta è successo che mi ero astratto fino ad arrivare in una fumeria doppio vietnamita, no? Sai quei posti? Ed era gestita da due sorelle diciottenni, orfane e annoiate. Beato te. Drago, per tutti gli sforzi che facessi, non ci crederai, rimanevo sempre lì. Ma ci sono rimasto 2 mesi di fila con le due sorelle vietnamite. Poi ho finito i soldi, le sorelline mi hanno sbattuto fuori e finito tutto. Però per 2 mesi non ce la facevo. Vabbè, ma io non vorrei stare 2 mesi qui davanti allo spazzolone, dai. Adesso senti, mi sposto nel parcheggio proprio. Se vuoi ti aspetto nel settore D del parcheggio. D, ricordi, D come Domodossola. Sì, ma Drago, ma non esistono posti un po' meno squallidi? Che ne so, vai al bar del centro commerciale. Non sarà granché, ci sarà la solita puzza di fontina fusa che brucia sulla piastra da mesi, ma almeno non è un autolavaggio automatico o un parcheggio, insomma. No, sì. Dai, no, nel bar c'è puzza di fontina fusa che brucia sulla piastra da mesi. Ma è normale. Sì, ma fa schifo. E preferisci il parcheggio? Sì. E allora stai lì. Dai, non riesco ad astraimi. Astraiti. Cappa. Cappa, io non ce la faccio. Ma dai, Drago, è facile. No, senti, io rimango qua. Nel parcheggio? Sì. E cosa fai? Faccio il parcheggiatore. A chi non mi dà 2 euro, gli buco 2 gomme. 2 euro, un po' troppo 2 euro. Ma 2 gomme costano di più. Di 2 euro. E beh... La fabbrica di polli. In the middle of nowhere. Trek, stai giù, eh? Mi raccomando, non muoverti e stai zitto, capito? Sì. Fai finta di niente. Trek, ci sei ancora? Sì. Ma no, lascia giù, non mangiare boccioli, capito? No, che se mangi boccioli poi ti viene il saturnismo, eh? Nei boccioli c'è il piombo, eh? E il piombo è velenoso. È il saturnismo, eh? Aiuto, aiuto! Ma no! Ma non aver paura! Non c'è mica bisogno, tranquillo, ci sono qua io. E poi il fatto è che sono io che a volte mi addormento male la sera. E dopo sogno che siamo 2 fagiani il giorno della riapertura della caccia, eh? È però solo un sogno, eh? Capito, Trek? Trek! Trek! Trek! Pronto? Cappa, sono sempre Drago. Non lo so, ma dove sei adesso? In un deposito di mattoni. E come fai a saperlo? Era la degna conclusione del tuo viaggio di piacere nel mondo dell'astrazione. Un deposito di mattoni, complimenti, Drago. Sì, sono in un enorme deposito di mattoni. Sai quelli che vedi quando sei in treno in mezzo al nulla? Sì, belli, ecco, belli. Uno di quelli. Belli. Aspetta, guarda, ti dico come si chiama la ditta, così magari riesci a venirmi a prendere. No, Drago, ascolta, io non vengo in un deposito di mattoni. Davvero, no, preferisco la fabbrica, te lo giuro, sinceramente. Ho capito che preferisci la fabbrica, ma io cosa faccio qua? Non so che cosa dirti. Io ma sono dai. Stato a Barcellona quando mi sono astratto. Tu sei finito nel nulla dell'Interland Lombardo. Per favore, so. Certe differenze non sono frutto del caso. Arrenditi. Vabbè, ma tu dici così, tu parli così perché è facile, ti è andata di lusso. Se no protesteresti quanto me, dai. Tu hai quel senso di apparente giustizia sociale che hanno tutti quelli che stanno bene, che non hanno mai dovuto lottare contro le avversità. Beh, insomma, i cugini delle gemelle vietnamite orfane mi hanno fatto assaggiare un po' di tecniche di tortura del sud-est asiatico quella volta, quindi devo dire di non essermi proprio divertito. Se vuoi ti spiego anche i dettagli. Cappa, perché a un certo punto hanno preso... Ma no, cosa? Cosa faccio? Aspetta, guarda, laggiù ci sono dei camion parcheggiati per la notte. No, no, Drago, attento ai camionisti, eh. No, guarda, chiedo aiuto a loro. No, Drago, i camionisti. Aspetta, non ti fidare dei camionisti, Drago. No, aspetta, allora, scusate, buongiorno, senta, io mi sono perso. No, ma cosa fate? No, aspettate, Drago. Fermi, Drago. Che cosa succederà adesso? Perché a Drago sembra di... E soprattutto, a che film si sta riferendo? Lo saprete solo tornando domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo fassbinderiano allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, la fabbrica di polli. Sono sono in mezzo alla strada con i cani che abbaiano. Con i cani, cioè.